su M2O. Inizia il cammino, cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Buongiorno, sono Gigi D'Agostino e io adesso suono un po' di musica. Voce del verbo che saluto e vedo. Voce del verbo che saluto e vedo. Che saluto e vedo. Voce del verbo che te vedo. Che vedo. Che saluto e vedo. Voce del verbo che saluto e vedo. Che saluto e vedo. Voce del verbo che te vedo. Che vedo. Che saluto e vedo. Voce del verbo che saluto e vedo. Che saluto e vedo. Voce del verbo che te vedo. Perfettamente. Che saluto e vedo. Voce del verbo che saluto e vedo. Che saluto e vedo. Vedo. Tutti, forza. Non è che possono stare qui tutto il giorno a voce del verbo te saluto e non te vedo. Io qua c'ho da suonare anche, non è che posso stare qui tutto il giorno a... Te saluto e te vedo. Te saluto e te vedo. Voce del verbo e te vedo. Te perfettamente. Te saluto e te vedo. Voce del verbo. Te saluto e te vedo. Te saluto e te vedo. E te vedo. Te vedo. Siamo stimato che sta suonando Gigi D'Agostino. Dai, Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, vorrei dedicare Impressioni di settembre alla mia piccola Anastasia e dirle che papà le vuole tanto ma tanto bene. Santo di Catanzaro. Una delle cose straordinarie di questo cammino è che, anche se è lento o violento, non favorisce la violenza, bensì l'amore. Cristina 80, da Messina. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dormo ancora alla campagna, forse no. E sveglia, mi guarda, non so. Respira. in ogni dove, lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Lento, violento e altre storie. Ora la musica c'è. Musica c'è. Volevo dedicare il mio angelo Elisa, l'uomo sapiente, e dirle che ogni tuo battito in lento, violento, è un battito del mio cuore per lei. Ciao Gigi. Yuri 79. Poco, molto poco. Vorrei dedicare l'uomo sapiente alle mie amiche Fabiana e Marta, che fra pochi giorni hanno gli esami di maturità. Poco, molto poco. Bacio da Luca D'Arieti. Manu, ti amo. Io so poco, ma penso tanto. Ma so poco, molto poco. Anzi, niente. L'uomo sapiente. Penso tanto, ma so poco, molto poco. Anzi, niente. L'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. E nella successione dei fenomeni. Tanto, poco, niente, so molto poco, anzi, sì, niente, l'uomo saliente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo saliente, è fino. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni.

cammino di Gigi D'Agostino ogni giorno ti scassa un pochino. Gigi, vorrei sapere come mai quando ascolto la tua musica tutto sembra più facile in questo mondo così complicato. Puoi suonarmi I Have a Dream per ricordare a me stesso che nella vita bisogna eseguire i sogni per farcela. Daniele, detto Jack, da Grugliasco, Torino. Del centro Italia questo sabato 19 maggio 2007 a Latina, discoteca 24.000 baci, alle ore 22 suona Gigi D'Agostino. Facciamo rumore, danziamo l'amore. Metti ininterrottamente Ire dalla Brex. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. Alla contingenza. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve ininterrottamente.

D'Agostino. So Superstar, il nuovo profumo di So, in collaborazione con Kiss Me Magazine, sta cercando la nuova ragazza superstar. Registrati subito su sofragrance.com, carica la tua foto e scrivi il motivo per cui dovresti vincere tu. So Superstar premierà la ragazza superstar con premi incredibili. Info sofragrance.com. Info sofragrance.com. Nel settembre del 1981 acquistai il 45 giri di quel racconto per potermi riascoltare quella storia ogni volta che avrei voluto. Gigi, è bene che tu sappia che sabato sera a raduno sei stato grande. Vorrei dedicare la batteria della mente a mia sorella Valeria. Dario da Bergamo. La batteria è completamente scaricata. La batteria è completamente scaricata. La batteria è completamente caricata. Se volete scrivermi 333 64 67 662. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Vorrei fare una canzone al mio dolce pensiero. Vorrei dirti molte cose, ma racchiudo tutto in un immenso ti amo. Tu sei il mio presente. Tu che esistendo hai trasformato ogni giorno a colori. Tua Roberta. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare. Dolcemente a chi mi

sono Barbara. Voglio fare un appello. Sandro, sabato mi porti al raduno del 24.000 baci? Gigi, suonaci One and One. Grazie. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi, spesso la vita non va per tutti nel verso giusto, ma la tua musica c'è ed è sempre presente. Aiuta, emoziona e dà la forza necessaria per andare avanti. Vorrei dedicare l'Amour Toujours a Erika. È un periodo pieno di incertezze per lei e vorrei solo che capisse che io ci sono e che se ha bisogno di me, sa dove trovarmi. Eri, ti voglio bene. Mix 86 da Macerata. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And fly with you. Finalmente, in ogni dove, Lento, Violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora, la musica c'è. Sano. Ora c'è lui, DJ Provenzano.